Oggi lanciamo in questo momento simbolicamente molto importante, perché per noi la giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari è un evento operativamente molto qualificante. Diventa per noi una bella occasione per presentare l'inizio di una campagna che, l'abbiamo scritto a caratteri cubitali, vuole essere un patto di fiducia che noi vogliamo rinsaldare con i nostri datori di lavoro, che sono i cittadini che finanziano il nostro servizio sanitario regionale, perché viviamo di un momento dove l'individualismo prevale sull'interesse comune, prevalgono in molte occasioni, in molte situazioni, la prevalenza dell'io verso il noi. E questo ci espone in determinate situazioni conflittuali, quali possono essere momenti in cui giustamente chiediamo come cittadini non solo di avere prestazioni, ma avere degli atteggiamenti che possono portarci soddisfazione e promozione della salute, e magari non li percepiamo come tali. I nostri operatori comunque sono pronti, sono attrezzati, sono culturalmente competenti anche a gestire questi momenti di disagio, che nelle loro fasi più acute possono sfociare in vere e proprie aggressioni, che siano verbali o che siano fisiche. Quello che noi vogliamo sottolineare con questa campagna, che dice più cura per chi cura, vuol dire più vicinanza non solo da parte delle istituzioni, ma da parte dei cittadini nei confronti di quei professionisti la cui missione, il cui obiettivo fondamentale è quello di portare la propria competenza a migliorare le condizioni di salute di chi ha bisogno. È una campagna per noi particolarmente importante e significativa, sulla quale noi vogliamo investire non solamente la capacità informativa e di formazione che noi abbiamo verso i cittadini e verso gli operatori, ma anche dotare le strutture sensibili, a partire dal pronto soccorso, dai luoghi dove le aggressioni verbali o fisiche si manifestano con più intensità, di tutti quegli strumenti di controllo, di monitoraggio, di prevenzione nei confronti degli atti di violenza, attraverso una collaborazione tra istituzioni, prima di tutto le forze dell'ordine, che portino anche a dotare i nostri pronto soccorso, i nostri luoghi comunque di maggiore, in cui accadono con maggiore frequenza questi episodi, di quei sistemi di monitoraggio, quali posti di polizia permanentemente presenti, sistemi di videosorveglianza, di attivazione tempestiva delle forze dell'ordine, questo sempre con una collaborazione molto stretta anche con quei soggetti e con quelle ditte che, diciamo, espletano attività di sorveglianza all'interno delle nostre strutture, che da tempo sono presenti e sono un riferimento importante per i nostri operatori. Diventa anche fondamentale la capacità che hanno acquisito, e lo testimoniano i dati, i nostri operatori nel segnalare ai nostri siti specifici e regionali gli atti di violenza che subiscono. Questo lo notiamo soprattutto, sono comportamenti virtuosi messi in atto dagli operatori che hanno paradossalmente una minore esperienza da questo punto di vista, che sono più freschi di formazione, anche perché i nostri colleghi, i nostri professionisti più esperti hanno già acquisito una capacità di gestire le situazioni di crisi e di conflitto, che molte volte si risolvono nel non segnalare questo, ma quello che noi cerchiamo di fare è invitare i nostri colleghi ad essere puntuali anche su questo, ma perché ci aiuta a capire meglio qual è il livello di conflittualità che stiamo vivendo. Ma soprattutto, ripeto, fondamentale è istituire o comunque rafforzare quel patto di fiducia, direi quel patto di comunità, che le nostre strutture sanitarie del nostro servizio sanitario regionale hanno con tutti i cittadini. Questo è un elemento essenziale sul quale noi vogliamo continuare ad investire, come vi dicevo. Tutto ciò è possibile perché comunque come regione abbiamo delle strutture tecniche che hanno definito, condiviso con le aziende, coordinato l'avvio di questa campagna.